Ogni sera di sotto al mio balcone sento cantare una canzon d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento forte il cuore, e battere mi sento forte il cuore. Oh, quanto è dolce quella melodia, oh, com'è bella, quanto m'è gradita. Ch'io la canti non vuol la mamma mia, vorrei sapere perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo cantare la frase che m'ha fatto palpitare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angel di Dio. Oh, bella innamorata, tesor mio, vi sottil vidi ieri a passeggiare e lo sentiva al solito cantar. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringimi a cuore, stringimi al tuo cuore. Oh!